stazione Natalino. Hola. Chi è avanti? Gianni. Tu è Antonino. Lasciato il baracchino acceso, mi sono c'è nessuno, ho fischiato, chiamato Natalino, niente, poi beh, insomma vado in cucina, c'è il baracchino acceso. Ma che non entro, lo sento, entro. Oh, io so. No, non sei uscito in radio. KK. Vabbè. Noia. Cosa stavi facendo di bello? Ma ci ho fatto una dormita. Io sono uscito alle 3:15, sono andato nel mio caso, ho preso un po' di prodotti che mi servivano per il bagno, e per la cucina, per terra, eccetera. Poi sono passato in aerospin, vabbè, mi sono preso 5 scatoloni di gelati, ho fatto il pieno. Poi ho preso altra roba e ho riempito il pozzetto e più il frigo. Boh, basta. Avanna, e là, la mania di gelati. Ogni qualità ce n'è, buoni miei. Oh yeah. Lasciali stare a Monica con i gelati, non li mangiate. No, che li batti male, poi grassa è da culo, no, no, no, no. A te ti fanno male. No, che quasi le vai a Tonino, gara. Mi ciao Natali. Buonasera, a te due. Ben sentiti. Euiaia. Cate li quasi ne male, già li quasi ne vai. Vabbè, e Mario, no? Ciao Natali. Inteso, l'hai inteso. Si è fatto rubiero, ma non è bagliato. Aspetta che forse c'è qualcuno che sa la bagna dei cani, un attimino. Ah, pensavo in radio. Ecco, hai inteso, l'hai salvato rubiero, Natali, ma non è bagliato. Se no, potete bagliare, allora, ma non è bagliato. Giustamente... L'ha vestito in camera da letto. Ha fatto il pieno. Non vedo che dice a me da voi. Lo fate chissù. Non vedo che dice a me. Ecco. Avanti. Buonasera, buonasera. Chi è là? Buonasera a lui. Lo più rudo da questa parte, con chi abbiamo l'onore di parlare? Signor Carlo. Poi Carlo. E dove sei? Sono Piazzale Segni. Ah, sei in macchina. Non ti avevo riconosciuto. Ciao Carlo. Ciao, chi è? Chi è? Gianni l'ho riconosciuto, voce inconfondibile. E la mia è inconfondibile, lo stesso, bobo. Vai, fai un altro passaggio più lungo, perché con questa radio c'è tutto diverso. E stamattina eravamo lì con Gianni in Piazza dei Segni, ci aveva preso un bel caffettino, avanti questo passaggio lungo, va bene? Va bene, va bene, va bene. È che ho messo la radio in macchina perché l'avevo tolta tempo fa e quindi stavo provando a regolare insomma il ROS e fare che vada bene. Però volevo collegare anche qualcosa per pompare e quindi prima volevo collegare lo strumentino per vedere se era tutto a posto, tutto qua, stavo facendo delle prove. Detto chi sono io. E a me non mi saluti Carlo. Ciao Natalino. E io chi sono? Tino. No, no. Allora c'è Gavino. Ma neanche, ma qualcuno l'ha azzeccato, È completamente diversa qua la voce, quella di Natalino e di Gianni sì, ma la tua è un po' diversa. Tonino. Tonino. Ehi, Kawasaki, Kawasaki. Sì, no, la voce tua, guarda, è lo stesso, è riconoscibilissima con l'altra radio, ma con questa, diciamo, è tutta un'altra cosa. Tony, non ti stavo riconoscendo, scusami, ma capito, quando fai l'orecchio a una voce con un'altra radio e con questa niente. Vabbè, no, non so fa niente, non c'è problema. Comunque, Natali, ogni pacco ce ne sono 6. Ne ho preso 5 pacchi e sono 30 gelati, cioè uno diverso dall'altro. Carissimo, sto arrivando! Quale vuoi? Cornetto alla crema. Ma no, cornetto alla crema, sì, poi c'è cornetto al caffè. Poi ci abbiamo la Marina Giulia, non me la metto più. Poi ci abbiamo quello tipo di pinguino che c'ha tutto il riso fuori, dentro c'è quella cosa rosa che è buona che. Poi ho preso il pinguino al cioccolato. Cioccolato fuori la crema dentro. Poi ho preso il biscotto, gran biscotto, l'altro me la metto più. A me mi piacciono i ricremini, mi piacciono. E quanto c'hai di stazionari? Avete parlato in 3. Ho detto, Carlo, quanto c'hai di stazionari? Ah, Carlo già parlato. Ah, boh, forse sta facendo qualche... Perché se c'ha poche stazionari, gli sale di 2, se mette linea retta, gli sale di 2. E rientra sempre, diciamo, 1,3, 1,4, là. Ebbene, è lì. E allora c'è già, te lo vuoi? Ui. In estate me li ho presi quei cremini. quelli lì in maggio, quelli lì mi viaggi in aprile. Uno ogni tanto già me lo mangiavo. E io c'ho crimini pure ho preso, ce li ho. Ma allora vedi, confessando, anche lui, confessando che sembrava un prete perché lui non mangiava nulla, piano piano si scindutto pure. Natali stamattina ti avevo preso il caffè, te la faccio già, non te la mangi, no, non me la mangio. E così, non te lo vuoi mangiare, se no lo dico Natalino. cazzo, peccato che eri impegnato, se no mi ricevo da Taredo a Gianni. No, ma non si è mangiato la bassa, ha fatto la bravo il Mazzano. E tu che ti dice l'altro, sono grande e me la ci comparata. Non è vero. Scusate. Eia, ti ho chiamato poco fa. Sì, avevo staccato perché stavo ricollegando tutto. Come sto uscendo adesso di segnale? Prova. 1, 2, 3, prova radio. 4, 5, 6. Già va bene, dai. 6, 9, 25. E allora sta pompando. Sono sempre là in piazza Lessegni. Allora tu di stazionare quanto ci avevi senza? Allora senza era la lancetta, praticamente si muoveva appena, quindi avevo poco e niente, e così c'ho uno. E allora va bene, dai, uno è già tanto, perché io quando lo regolavo 1 e 1 mi dava 1 e 3, dai, di stazionare con la cosa attaccata. E adesso vedo come va, avrò occasione di provarlo, dai, in seguito. Adesso ho riattaccato stasera. Comunque ti ho aumentato anche la radio. Benemera, questa è quella piccolina che ho in macchina, ma già va bene. Siccome stasera rientro al lavoro, c'ho il turno di notte, quindi se c'è qualcuno così mi faccio una chiacchierata e vedo come va con la vitamina. Meglio, ti ho aumentato di brutto anche la radio. Benemera. Avanti, Tattari. Un attimo, QTC. Tonino, ci sei ancora? Cappa che ci sono. Santiago 8, tu mi stai arrivando, la radio 5 è ottima. Meglio così, dai. Adesso è che me ne sono venuto qua in piazza Lessegni perché magari è tutto aperto, quindi sono bene al centro e volevo delle misure, insomma, abbastanza precise prima di attaccare tutto, dai, così vedo un po' come va, se scalda questa roba che ho messo, eccetera, perché in macchina avevo pochi watt e non è che andavo lontano. Io già lo sai dove sono fuori Sassari, quindi sono un po' nascosto per quella zona. KK, adesso io me ne rientro a casa, se ci siete più tardi volentieri, perché io uscirò intorno alle 8 per andare a lavorare, mi mangio qualcosa al volo e poi nel caso ci sentiamo. Grazie comunque della pazienza che vi ho interrotto, insomma, nelle vostre discussioni per chiedere un controllo. Grazie mille, ciao Gianni, ciao Natalino e Tonino, scusami se non ti ho riconosciuto, ma la radio era non incomprensibile, la voce non la riconoscevo con questo tono qua di questa radio. Comunque rimango in ascolto, proseguite pure. Tranquillo caro, non è successo niente, no? E poi siamo anche noi appena entrati nel canale, quindi non c'è problema. Avanti Gianni. Ciao Carlo, dai, ci sentiamo dopo, non ti mettere problemi. Per te questo ed altro. Natalino, ciao QTC. K, io QTC ho. Se con questa dolore all'acca che non ne posso più, boh. Non capisco, boh. Comunque mi sono preso anche un bel pacco per fare i toast, ho preso la fontina già fatta a fette, ho preso il prosciutto cotto, così dopo l'assaggio. Bravo. Occhio che mi aumenta la pancia. No, siccome allora quelle cose per il tosto, che è nuovo, come quasi mai usato una volta solo, quindi l'ho bello lavato, sgrassato, pulito, asciugato, ho detto, dopo ve lo provo a fare due tosto, mi faccio, non di più, dai, già non fa nulla due tosto, Gianni, dai. Poi non so se mi faccio il pratagliolo, che ho preso una cassetta di pratagliolo, così belli, guarda già, con aglio e prezzemolo, Sant'Antonio mio. Io prendo quelli tipo Antuna, dai, prendo quelli lì, li faccio integrare, aglio e prezzemolo e peperoncino, però ci metto anche un po' di sale. No, non mi è piaciuta l'Antuna che ci aveva, no, io ho preso la cassetta grandetta, un abruccino, e ho preso quella lì. Metto, ma vedo, se riesco a farmi stasera, insomma, le faccio domani, non c'è problema, ma i funghi ce la fanno in fretta a cucinare, per cui non c'è problema. Dopo gli smatto in padella, un paio di cucinare, uno filo di olio d'oliva, e siamo a posto. Ma porcini o frattaiuli sono? Quei bianchi lo tutte, cosa sono? Frattaiuli, i porcini sono scuri. Sono più saporiti quelli che ti dico io. Se tu provi quelli marigarri. Alla tuna? Quello ti fa una tuna. No, a me io l'ho vista la tuna, non mi piace, mi piace pure il cartoncello. E si gustare una vacca di dina? Io non ti credere. 7-8 le trovi, capito? Anche 10 a volte. Dipende. Io l'ho preso, sono buone perché rimangono me le carosiniche, insomma è buone. I cartoncelli sono ottimi. Lo so, infatti aspetto quando le vedo, le do una schiaffotto, le compro subito e me ne posso. A me piacciono più i porcini. Ah, è porcellino. I porcini sono ben buoni. Io li faccio con riso alla milanese, li metto zafferano, porcini, e vai che ce n'è. Perché tu sei porcello pure per questo, i porcini. E beh tu, ma già, la gamba come va? Male, male, mi fa male. Ho fatto uno sforzo sovrumano e ho fatto male a farlo, e oramai adesso me ne pento. Che miseria, ti spiegherò poi, dai. Mica fa. Andrà bene, oh, io ci mangio, mi sono parato un po' la mazza da quello, come si cacchio si chiama, Casa di Spagna. Adesso mi docino e tutti i colitri più tutto il resto che ho preso. Siccome mi piace molto la morbidente, il Monamur, quello celeste, che lascia un bel profumo dopo che lo lavi anche tutta la settimana. Se anche tu lavi le lenzuola, le federe, la roba, le camicie, capito? E ne ho preso, ne ho uno che era già a metà, allora ho portato altri due e ne ho comprato per sicuro. Ma ce ne va soltanto. È un bel profumato già, non so se lo conosci. Guarda, io se tu provi l'Enor, è il migliore che c'è. È il più profumato che esiste e poi il profumo rimane. Non è come certi ammorbidenti che poi non rimane il profumo. Il Lenore è un bel buono. No, il Bon Amour rimane un bel, te lo sto dicendo. Tant'è vero che Monica ha detto ne ha preso un altro di marca e nuda dopo due giorni era svanito. Invece il Bon Amour invece non l'ho trovato e quando lo trovo lo compro perché rimane anche settimane. Ma tu cosa lo prendi sfuso? Io più la bottiglia grande in plastica, che è sfuso, e sfuso non le compro io. No, perché ci sono le cose che lo vedono anche sfuso, non è che c'è una cosa. Lo vedono anche sfuso, capito? Ho capito, però no, io lo compro già. Nel mio caso c'è tutto quanto, capito, delle bottigliozze di plastica. Niente, ho visto delle friggitrici ad aria, cazzo, belle grandi, 140 euro, bella, bella veramente. Lo prendi? Niente, non me l'ho preso, se la piglia l'unico. Più là, già, per adesso. Natalia, è finito il questo? Stavo parlando con la 50 e mi doveva dire cosa. No. Ti avrei detto, molla le mani dalla fainina. Io oggi come sono uscito da casa ho lasciato un capitale. E cioè? Ho pagato il bollo della macchina, il condominio, mi è uscito circa 400 passei. Capito, vabbè, il condominio, bollo, il bollo della macchina è un bel caro, per una macchina di grossa. Vabbè, ma io ci ho speso tutto, stamattina e stasera, e vale fare, prodotti per la casa, da quanto ci ho speso 220 euro e tutto. Già basta. E il pozzetto ce l'ho di nuovo pieno. Infatti non fa uscire da casa. Quando esco da casa se lo fa pagare. No, sono uscito a prendere due cazzate, solo i prodotti, la spesa l'ho fatta stamattina, riempito il frigo più le cose, la dispensa che ho. Niente. Poi sono uscito stasera a prendere solo i prodotti per la casa, amiche, sono entrato all'aerospin e ho giocato il capitalizzato mi manca. E quindi tra gelate, quello, ha preso anche il profiterolo già, mettono dimenticato. Quello che non manchi mai. Dopo dà la colpa a Monica, di rumani in tutto due dopo dà la colpa a Monica. Oh, in Natalia, te li immagini. E qua mi sentite, sono sotto casa mia, Gianni. Ci sentiamo. Certo che ti sento. Ma l'antenna quale stai usando? Bene. L'antenna, che antenna stai usando? È quella S75 della quella corta, non sto usando la lunga. Si sente, tranquillo che ti sentiamo. Sentiamo ugualmente, più basso ma ti sentiamo. Adesso sono in mezzo ai palazzi sotto casa, ho parcheggiato. Vi sento una meraviglia qua, eh. Anche a me senti bene, Carlo? Perfetto, Tony, adesso ho regolato anche la timbrica, diciamo, è tornata la tua voce squillante. Meno male, dai. Ok, adesso scendo, salgo a casa, nel caso ci sentiamo dopo, mi devo fare una doccia, preparare e poi mangio qualcosa, se ho tempo, se ci siete ancora, volentieri più tardi. Cappa, io dopo mi faccio due tosse e sono di nuovo al baracchino, tanto mangio a me. Come, diciamo, prevenire la fame. Bene Meda, grazie di nuovo, ciao Gianni, riguardati con la gamba, non ti sforzare troppo. Ehi, infatti ho sbagliato, sto pagando adesso, stavo già passando tutto e metto la dolore. Avanti, ciao Carlo, dai, buona carica quando la fai, magari se ci siamo in rotta ne riparliamo, là. Avanti Natalino, se ci sei. Già ci sono, ciao Carlo, ci sentiamo dopo. Ciao Natalino, anche a te, ciao, mi ero dimenticato, ti sento benissimo qua, ciao ciao a tutti. Avanti Gianni Ghiddu. Eia, ti sei perso tutta la bara di roba che ci ha comprato Torino, cazzo, profitterò di tutto e di più. E in più siete andati come le carrogne a cattapigliarmi il caffè a faccia mia, perché lo sapevate che ero impegnato. Lo so, ma io ero in giro, gliel'ho detto a Torino, se si faceva un salto che ero vicino a Piazza Alessini ed è venuto. Ma cosa carogne? Allora noi siamo stati carogne anche non è giunto Torino, cosa entra? No, Tonino era trattenuto da impegni improrogabili. Scusate che mi ho assentato un attimino, cos'è successo? Che Natalino ha detto che siamo stati caroni ad aprirci il caffè senza di lui. No, un attimo, lui ha detto ieri, ti ho detto che te stamattina, Natalino è molto impegnato stamattina, quindi l'ha detto lui che era impegnato oggi, perché ci vediamo, io gliel'ho invitato ieri, ho detto bisogna il caffè per domani mattina. No, sono molto impegnato, l'ha detto lui stesso. Natalino con comune. Gliel'ho detto infatti, ero impegnato tutto il giorno. Oggi, domani tu mattessi, mamma mia, qua. Marco, domani devi andare a mettere il suo caffè e chi ci passi? Perché devo fare delle commissioni, è quello che sono impegnato, qua. Un abbraccio a voi, davvero. Ne ho le scatole piene. E me ci vai dopo, a Savigua fa colazione, era tarimba. Il potere, dice la mia madre. E io qua cuore! Ciao Luca. E beh Luca, la banana è bella. Ma boh, andate, avanti Torino. Quindi, impegni, ma domani a mezzano, una mezz'oretta si può aprire, cappa fa operazione. E dopo un impegno, capito là, è un macello, allora no, devo essere per forza libero, capito? E voglia, se mi malotto per operazione, 8 mesi, guardi, alle 9 si libero. Perché alle 9 devo fare una commissione. Questa persona il giramento di scatole. Se viene anche Gianni, già vengo, là, siamo in tre. Mi dite dove vi fate trovare e già vengo. E io domani non devo uscire, domani è a riposo, quindi non devo uscire domani mattina. Vengo io a prendere, che non devi uscire, sei a riposo. Scusa, ma non devi appigliare pure la compagnia tua? No, è a riposo. Ah, domani mattina sì, ma domani notte non lavoro, è vero, domani notte è a riposo. Sì, io vengo io a passare a pigliatemi, non è problema, già. No, non è quello il problema. Oh, yeah. Ho questa gamba, adesso speriamo che mi passi anche il dolore, perché sennò non riesco manco a muovermi. Dai, ti ho permesso domani mangiate due fratelli, dai. E voi, passabili. Adesso mi prendo l'occhio, dai, vado a prendermi l'occhio perché non ce la faccio più dal dolore. Aspetta Gianni, allora ok, per domani mattina. Ma a che ora? Natalia, a che ora? Va bene, lì su. Dove siamo andati con Gianni? È proprio quella. Alle 8 già va bene. Posti dubbi su quei parenti. Però dopo me ne devo andare subito perché alle 9 c'ho quell'impegno là. così chi se lo vivente. Ah, io già scatto. Comunque all'inizio non sei uscito in radio, è basso basso, e poi ti sei ripreso Natalino. Perché no, già penso io a prenderti, anche alle 7:30 a me. È troppo presto, è troppo presto, io la notte non dormo, Tony. Non dormo, mi assoffisco la mattina. E venire alle 8 non ce la faccio, aia. Non dormo la notte, tutta la notte sto sveglio e poi mi assopisco la mattina verso le 6:30 e sto sino alle 9:15, dipende. Sì, capita, se l'altra volta sei andato che ero un punto via, che ero in mezzo a Cacuzza, era alle 8:30, andava bene, adesso non va bene alle 8. Invece contare le tue pecorelle, conta le mucche, vedrai che ti dormi. Poi mi devo guardare anche Davide Urbes. Egale. Provendo vinari, gli urbex che cosa sono? Stai dicendo capomanda? Sono diciamo delle cose che fanno nelle case diroccate, ospedali diroccati, fanno diciamo delle, come posso chiamarle? Vanno a vedere che cosa c'è, se ci sono fantasmi eccetera eccetera, delle escursioni, ecco cosa fanno, fanno delle escursioni in queste case di roccate e parlano con i fantasmi. Ma poi ti asciughi, non drome, ecco perché se viene in incubo a te non drome, ma te immagini, giga. Lo guardi un altro momento, dai, ma invece mi stai un caffè con, siamo in tre, mi dà canattarino, aiuto, dai, boh. Alle 8 un bel presto, caio. Natali, fai qualche cosa e poi ci troviamo. Natali. Ehi, dimmi. Non sei uscito. Ho detto, ehi, dimmi. Ma dilli già. Ho detto che è troppo presto alle 8 Natali per me, perché io non dormo tutta la notte e poi mi addormento la mattina, capito? Troppo presto alle 8. Gianni, buongiorno. Ehi, stai già saludando, non mi riposo. Ehi, sto mangiando già. C'ho un mal di gola, ragazzi, ho preso un freddo ieri, ho fatto un casino a casa, ieri ho bucato, stavo spostando il mobile con il coso, là, perché era troppo basso, il mobiletto con la babbo in bagno, cazzo, ho preso i tubi in pieno, poco fa ho finito, c'ho un muscio, mi sto mangiando un panino, c'ho me di fa. E hai bucato tu? Ho fatto 4 buchi in un tubo, il tubo dell'acqua fredda che va alla cassetta e il tubo dell'acqua calda. Vabbè, ho raccordato. Ho chiamato tramite mio fratello, il idraulico, voleva 60 euro di manodopera più materiale. Ho messo il tubo me. Intorno ai 100-130 euro voleva. Ma i tubi cosa sono? Sotto traccia o sono liberi? No, sotto traccia, è rame. Se dovete fasciare tutto. È un pezzo, l'hanno sistemato, messo le mattonelle anche. Perfetto. È tornato come la prima, se ne frega, va bene. Tante volte c'è quell'attrezzo che serve per misurare, a vedere se c'è ferro, se c'è materiale ferroso. E quello serve. Ma se vuoi, se vai a comprare questo attrezzo qua, e poi magari, secondo dove vai, dice che non c'ha soldi. Non so, però ti serve anche a te. A me una volta lo stesso, ho fatto 3 buchi per mettere la staffa al televisore, il quarto buco ho trovato ferro e me l'ho dovuto prendere in quel paese, ho dovuto spostare gli altri buchi, capito? Lo so, e ho preso tutti l'altro. Vabbè, va. Spatalino. Oh, che... Bene, il pannello bene va. Come? Il pannello bene va. Come pannello? Il monito! Ah sì. Ma che non stai uscendo bene? Ma che cosa è il microfono? Purulisa, purulisavamo. Il mio anno è iniziato di merda. Va di merda brutta, dai, prendete. Natali, controllano questo cacchio di microfono, sei dall'altro giorno che non esce. Evidentemente non schiaccio bene io, o è sporco l'interruttore, là, non lo so. Controlla il PTT, sicuramente si è messa polvere in mezzo, come fa di solito, li butti un po' di aria con la bomboletta e poi li butti lo spray per contatti. Se lo fai muovere 4-5 volte non lo fa più. Ma mi tocca smontarlo, è quello. È il senso che è una cosa smontare un microfono. È una cosa. Ma io non ne ho altri per questo. Cioè, il suo originale mi appesa un trono. Ma che apparecchio stai usando adesso? Il termine no. Solo quello. Guarda, dai una sguardata, dai. Vediamo un po'. Io adesso vado e mi prendo l'occhio perché non ce la faccio più dal dolore, dai. E allora io mi faccio due tosse. Vabbè, dai, tanto dello spray per contatti già ce l'ho. Adesso lo smonto e aspetto che entrate voi, dai. Dai, siamo dello spray per la gola, vai e ripassa. Arrivo, mi deve essere a mal di gola. C'è qualcuno, ma lei, quel microfono. E allora, come il padrone deve essere. Oh, una sfiga oggi, proprio sfiga. C'ho avuto due, ho preso il silicone, no? Ho preso quello buono, quello antimuffa. E purtroppo non mi è bastato. Non mi è bastato, come si dice? E ho avuto due di scorta. Cazzo, tutti e due secchi, nuovi nuovi. Porca puttana. Aspetta che sto smontando il microfono, lui. E io vado a lavarmi da dopo, ciao. Ciao, ciao. Capite, già lo sai, io cosa devo fare la mattina presto. Già lo so, adesso poi buono. Va bene, alle 8:30 va anche bene, ma alle 8 è troppo presto. Natalino c'è la papà che alle 9 c'è un appuntamento. E allora salta, dai, fregatene, io poi mi devo mettere a fare quel lavoro là, già lo sai. E vabbè, comunque, se lui poi si libera verso le 10:30 ci possiamo vedere. Vediamo, dai. Non ti dico una di sicuro perché devo fare le gabbie, capito? Natali. Ma penso che quello sia libero. Ma non so, non ti buono il suo corretto già. Ma poi se lo si fa? No. Senti poi buono. Adesso mi tuffo nella panna. Mica ti fosse a cuscino. No. Se vuoi ti faccio la foto mia. No, no, non c'è bisogno. So come è fatto un cornetto. Ne ho mangiato anche 12 in una giornata, figurati se non riconosco. Vabbè, da vedere, tutta la verità recendemi. E quando lavoravo, che sudavo e cose, mi prendevo ghiaccioli, cornetti, di tutto e di più. Sì, anche quando non stavi lavorando. Sono stato da lontanomi. L'estate scorsa. Poi rivenevamo noi, quindi andavo alla casa, pagavo, me ne prendevo due e me li mangiavo. Miau. E già sono buoni, eh. A me piace anche d'inverno. Ah, io d'inverno non ne mangio. D'estate sì, d'estate ui, non ne posso buono il frigorifero. Ah, che le fai buona subito? Con le vaschette, ui ui ui. Vedi, non mangi la fritta dalla vaschetta, perché sai, quando ti mangi un cornetto, lo inizi, lo finisci, invece la vaschetta pare viene troppo, devi mollarlo, poi devi metterlo in freezer, poi devi riprenderlo. Aspettare che si ammodicheggia un poco, no? Oh. Non è il caso mio, io la finisco la vaschetta. Quindi ti mangi male. E poi mi serve la vaschetta per fare il bagno all'uscita. La cosa è so. Ah, Tali, io, a ti scegli. Salva, chiedete il microfono. E già stavo uscendo bene quando avevo fatto entrare. No. Cosa ci voleva farlo? E la predico, sì, se non di più. Aveva il circuito stampato in mano, adesso. A chi l'ha rimonta del circuito stampato? Bastava metterlo nella molla del PTT. Ah, è vero, forse ce l'ha dietro. Dietro? C'è davanti. Dietro il circuito. No, io... Se quello che ti sente ce l'ha dietro, se no è meglio davanti. Appaga. Ho finito già, se è finito mi fretta il cornetto là. Però io domani mi faccio scappare dalla Lidl, perché là c'ho i cornetti giganti, c'è più grande, chi c'è più trommiore. Ah, quelli sono per i bambini. No, lo so, piccoli. Monica, aspetta. Oh, boh, speriamo che adesso vi passi questo dolore, ma secondo me c'è la muscolatura, Tony, la muscolatura che si è infiammata, non lo so, sento che è roba di muscoli, forse sto facendo troppa ginnastica, adesso bisogna che le faccia di meno, di esercizi, piano piano. E beh, uscendo sto... No, già sto uscendo. Ah, signore. Sono in tre. Ah, guarda, io grido, via. Ho dovuto smontare... Ho dovuto smontare il circuito stampato, perché l'interruttore, il PTT, ce l'ha dietro, capito? È la rovescia. Ehi, ho capito la tali, sì. E vabbè, almeno è risolto. Se lo fai da prima non ti dava più problemi. Ah, ma vediamo se andare... Per il momento sta andando bene, non te la dirà tu, che te la tiri poi te la prendi. Capito Natali, verso le 9:30 può andare bene, oppure verso le 8:30. Verso le 9:30, raga, va bene, verso quell'ora starò finendo di fare la situazione e faccio un salto lì. E vabbè, fatevi sentire, poi vi do la risposta. Fatevi sentire. E quando ho finito di fare le commissioni ti chiamo. Eia, va bene. Io ho la gamba cancarata, Natale. Ehi, già me l'hai detto che ti fa male. Allora, giubilato Rocchi, speriamo che mi faccia effetto. Speriamo di sì. Ma l'opinione pubblica, seriamente. Oi, oi. Cazzo, la 50 tutta raffreddata, ha preso freddo ieri e... adesso sta raffreddata. C'è influenza in giro, ti prende prima mal di gola, poi ti viene la tosse, la freddore, ti dura una roba di un 4-5 giorni e poi ti passa. Già lo so. No. Vediamo un po'. Inaccettabile. E un primario degli effettivi ha detto, è inutile che spendete soldi medicinali, questo e quell'altro, deve fare il soccorso, basta. Finito il soccorso, finisce tutto. E la farmacista quando gli ho detto, ma è te, ma se tu prendi medicinali invece che in 5 giorni ti guarisce in 3, cosa fai? Prospedo poi gli dirà. A me il dottore mi ha detto, l'influenza se la curi dura 7 giorni. Se non la cure dura 7 giorni. E infatti, quello che ha detto quel primario, ha detto che non c'è medicina che la faccia passare. È inutile più di tacchi pirina, ghisio, guidarsi, non ti va di nulla. E allora, sono palliativi quelli. Mio padre quando c'era mal di gola così prendeva il latte bollente, ci metteva il miele in mezzo e se lo beveva. Poi dicevo, mica si incendi rugola, lo pigliavo in giro. E anche mia moglie fa così. Si mette il miele con il latte caldo. Però dicono non ci fermiamo. Però quello fa bene per il mal di gola, per il resto a me mi ha lasciato dei postumi, un po' di tosse, di catarro, di cose, però diciamo il resto è passato, prima c'è tosse forte, ma secca, vedi, chissà che ti facessi luce. Sì, avanti Tonino, Tonino è colpevole, Tonino, Tonino si è fedele in tosse a me, in te, ci ha preso il toast per inaugurare la macchinetta, capito? E io ce l'ho quella per il toast, me li facevo prosciutto e fontina. Già sono buonissimi. Ed è chi va abbandonata, non ne so più friendly. La canto so con diabetico, più nuda. E molto se non ti fa niente, no? Uno non ti fa niente, se ne mangi 50. E beh, è tutto il rapporto a quello che ti mangi. E allora? Infatti, è tutto il rapporto a quello che ti mangi. Vabbè, dai, bisogna fare il Ramadan a Talì. Davvero, ma tutto rimane il Ramadan, ma come ti lo fate non mangiare, perché la sera poi si rifanno quelli che fanno il Ramadan, mangiano la sera. Secondo me è coccomole. Luca sì, che coccomole. Tu dove sei? Tia. Ma dove andiamo? E mi sa che ha chiamato pure lo spacciatore. Qua ci sono i negri che vengono e ti dicono se ne vuoi di bamba. Ehi, a poi il nome d'arte è Lucrezia. Per non farsi riconoscere, capito? Ti godili. Per non farsi riconoscere si ha messo Lucrezia, così almeno non lo riconosce nessuno. Tu dici non Lucrezia, come dire cavallo, io ti dico ti godili. Orrore che uso. Ma è vero che è diventato gay, Luca? Ah, vero? E a me me l'hanno detto. Ehi, quel culo di Gianni. Cosa? Sono diventato gay col culo tuo. Non è possibile, ci dai lo duio. Tu mi sei gay, ma ci rispondi tu però. Ma Antonio non si è sentito, Antonio Bombolino, Cristian, ma Bombolino non si è sentito stasera. No, cattivo, io non l'ho sentito per ora. Sarà impegnato col pargolo. No, ma non più di tanto, dai. C'è anche la mamma. No, già, io sono tutto il giorno impegnato, cioè, oddio, sì, vabbè, stamattina. Poi appena è andata via l'assistente mi sono fatto lavoro. Capito? La realtà ce l'ho tappata. Ce l'ho coperta col cemento, praticamente ci ho messo le mattonelle col collante senza tappare la traccia, non si vede niente. Sembra che poi meglio. Sembra che scoppi il tubo, ma scoppiare non scoppia. Perché ci ho messo il coso giusto, diciamo, raccordi giusti. Però, cioè, per non spaccare di nuovo, le buche di mattone si faceva la traccia. E gli ha fatto l'aggiunzione al tubo, non è intero, capito? Quello è. Io sono sempre contrario a queste aggiunture, perché poi possono esserci perdite e cose. Vabbè, se si è arrangiato così ce ne voleva molto di tubo. No, cazzo, 20 centimetri. 20, 15, no, neanche 10 centimetri. Vabbè. Magari già tiene, se alla fine già tiene. Anche a me è successo in cucina sotto al lavello, era intasato il tubo dell'acqua, praticamente è venuto un amico e tu conosci, mi ha fatto il lavoro, praticamente gli ha dovuto tagliare il pezzo di tubo che era intasato e fare il raccordo. Ma idraulico questo? Cosa? Idraulico è questo. Si arrangia. Ma anche io mi arrangio, però quando sono cose così, ci vuole un'attrezzatura adatta, Gianni, capito? Ci vuole un'attrezzatura adatta, ci vuole la piega a tubi, poi le rame, non lo gestisci, cioè non ce la fai a gestirlo così, poi c'è come si chiama? Multistrato, sì, riesci a piegarlo, non si strozza, ci vuole quello. E infatti quando ho fatto il piatto di luce a mamma, hanno messo un multistrato, agganciato al rame. E te l'hai fatto più il lavoro? Alla fine sì, come fratello ieri ho fatto il primo, poi mi sono fatto io tutto da solo. Anche le mattonelle mi sono messo, si nota quasi niente. Purtroppo si vedono i buchi perché l'avevo fatto troppo alto. Però vabbè, ci ho messo, non si vede, se si muore oggi si vede, se no non si vede già. Va bene, dai. va bene, tanto alla fine è sempre un bagno che ha 30 anni, cosa vuoi? Comunque adesso non è stato fatto, piatto doccia che è nuovo, dai. Dove mettervi degli stecchini nelle mattonelle, degli stecchini. Ah, va bene così com'è, già non ci più gana, boh, non tocco più nulla. Per lo spessore, capito? Va benissimo così com'è, dai. Io adesso aumentavo la bambina che mi sta poco. Sono macchiato il pigiama di silicone, la stavo levando con la... tagliavia ci sono riuscito, dai. Vado a farmi una doccia, già, arrivo subito. E vai vai, tranquillo, tranquillo, va fino a Natalì. Campa. Ma che vuoi che ti dica? Tonino, se adesso lo mattessi, si sarà mangiando tutti gli sindossi, chi sa fatto. Ci viene a lavarmi la pedivella. Cosa vuoi, a lavarti? La pedivella, ci viene a lavarmela. Sì, vabbè, dai, prendo la taglierina. Ah, che noi usi minorino, ma ti pensi? Sì, allora prendo... faccio un'arbulenza, beh, Anna. Prendi la cesuglia. Io c'ho il pappagallo, con quello lo prendi e poi con la taglierina tagli. E poi vai, la prego gli altri a vedere cosa è, che mostro è. Vai, vai, mostro. Ma voi vi volete in gradimento? Allora, lavorava un cigione è fatto in casa ed è pure contento, si avammi. Allora prendi lo sfavaldo. Ah, cosa è un cigione? Detto, invece è roba bassa, più o meno è roba bassa. Cittina. Da lì, più o meno è roba bassa, cosa, magari è un cigione. Cazzo, magari. Roba bassa, io sto molto piccolina, così. Ehi, andate, andate così, andate. Tu lo sai, quando lo va passa, non saluta mai. Non c'è mai più poi, Antonino, cosa stai combinando? Cosa c'è, mangiando il tosta al nastro? Oh, non rispondi più. Io la pedivella ha già fatto l'applicazione, l'ha già fatto, ha chiesto come te chissà di Lucca, e allora, passa a palla, l'ha già fatto l'applicazione, a chi non l'ha capato più. K.K. E tu vuoi un cuglionico? Oh, yeah. Non me la sento, proprio sono... Mamma mia, cara. La buona anima di alla guerra diceva così, a poche la ronfio. Ti devi ricordare il cuglionico va via. Dove? Ma su dove, un cazzo faceva ridere. Alla guerra. Oh, yeah. Ci viene a mangiare i sushi natalini? No, no. E non mi dico una deglia di vanicca. O una pizza. Spendo di meno e mangio meglio. Non mi piace il sushi. Mi mangio una mangiata, una verità. Dipende da dove lo mangi, dipende da quello che mangi. Se mangi gamberoni arrosto, gamberoni fritti, ti posso dire anguilla, tutta la roba cotta, io lo mangio solo dove c'è il salmone crudo, non lo mangio. Quindi gamberoni da più uni, è giunto Salvatore, è giunto. Abbiamo fatto un bel risotto, gamberoni di lusso, insomma, ci siamo fatti un bel fanchirurgia. Allora io adesso devo mangiare e basta, oggi ho mangiato cavola suffugata e una fettina, ma mangiare grosso, mangiare un bel no. No, la burrissa, la cavola suffugata ricordo un bel con le origini. Buona sì. Ce n'è anche per stasera, ma stasera devo andare fuori a mangiare, dai. Adesso vi lascio 5 minuti che devo fare una telefonata. Tonino, finita di mangiarti quei 50 probabilmente. Natali, ma che ne so? Sono le 6 e mezzo. Ah, ma siamo più tardi. No, le 6 e 31 so. Scusa, ma che devo fare? Oh, signor. Tonino non mi risponde già, perché sennò perdo il ritmo, capito? Cazzo sei di mare, era al telefono. Ah, innamorando stavi, allora sei perdonato. Non so come te Gianni che mangia sempre. Io credo che te ne mangiando chi sei 50 addosso, invece eri innamorando ieri. No, ancora il destro me l'ha già fatta, poi me ne fozzo. Cazzo. Poi mi faccio i funghi, va? aglio e olio e peperoncino, no, peperoncino è buco qui, aglio e prezzemolo. E sono le buruchissi. Via. Gianni, e tu, magnetici? Ah, Gianni sono lontano, ciao, mi buonanotte. Ah, sono qua, se non me la sei detto, poi rispondi. Sono al telefono, secco. Dirò sì, al telefono, invece ma niente, ma... No, è tu pure innamorendi dei passi. Buon allora rimaniamo così in realtà lì, giustamente. Appena è finito, compro il telefono, ci sentiamo. Infatti. Così ormai come ne rogavo da mezza ricattro, da poi io ne devo fare poco di altri cose, va in lavoro. Tutti gli impegni del cacchio. Il giorno 17 cioè, devo andare a Platamona, devo andare a farmi fare questo ecodoppler. Meno male che ho telefonato al cupo e mi ha dato subito l'appuntamento. Gli altri libri mi si mandavano chissà un dì e chissà quando mi lo fazia, invece mi era lui che mi l'ha dato l'appuntamento. Io non me ne metto più, come te le prodotte Natali? Un'ecografia è. Dove te lo fanno? Al collo, è quella al collo, ma l'ha ordinata, la dovevo già portare, solo che non ho trovato posto e allora me l'ha fatta fare adesso. Arugudue, me la devi fare se è colople. E me ne devo fare ordinare un altro dalla dottoressa mia. Quello per la gamba è mio. Capito. Sì, perché anche io dovrei farla. E ho messo la richiesta per l'elettrocardiogramma. A chi non ce l'ha posto, non ce l'ha posto, ma me la mette la giubbuccia di tua sabbia luce. Me lo faccio rifare dalla dottoressa Limita. Infatti, ma ti conviene andare dal dottor Maruggio, telefonaggi in chi vi pide l'appuntamento senza telefonare un gruppo. Se no non fai mai rubi. A pagamento No, una ricetta, un'impegnativa. Io faccio così, se mi tocca di fare la visita cardiologica, me la faccio lì. Lì mi fanno l'ecocardiodoppler, mi fanno, poi mi fanno la visita cardiologica e l'elettrocardiogramma, tutti in chi mi vado. Niente Ivi, Vito Maruggio. Quella via che c'è dopo dritta da via Brigata Sassa, resita come ti dice, dove c'era il negozio coso che lavoravano lì, Bombolino, ma non mi lamento che via Ecca. Gianni gli ha usato comunque. Da noi ce lo fermo lì. Via Armando Diaz. Ah, ha già un preso. Dopo mi guardo che ho i rifiuti vecchi, mi ci sarà il numero di telefono, ti do il numero di telefono, così quando c'è l'impegnativa chiami e ti fai dare l'appuntamento, senza passare per il CUP perché sennò è un macello, magari ti disini all'acrano, quando uno è molto si avanza. E allora, cazzo, avevo transitato anni, c'era Miglia Luci, deve fare giù il gruppo, infatti quando devo andare a tornare a Conti, vado con, sono d'accordo con il dottore, vado per controllo adesso a fine gennaio, direttamente a Conti, con la ricetta, posso prima, c'è Miglia Luci, gruppo, gatto, venne. Se telefono c'è il gruppo, non esci più. Perché ti mandano lontano a farla, perché a Sassari ti dicono che non c'è posto e ti si mandano a Ozieri come ti hanno fatto a me Bradedu o a Itili, anzi Itili è chiuso, quindi ti ci mandano a Olbia, qua sono diventati un macello. A me la volta me l'ha mandato a Nuoro e sono andato a Nuoro a far cura a me, non vado mai più, o basta. Che capita. No, adesso domani chiamo la dottoressa, mi faccio fare l'impegnativa, così mi mostro questo elettrocardiogramma. E anche le cose dopo dovrei fare, Natali. A me me lo fanno, perché io ho avuto un infarto, capito l'hai, nel 2007. E prima di farmi la visita cardiologica mi fa l'ecocardiocolor Doppler, mi fa. Io gli porto quello e poi mi fa la visita cardiologica e l'elettrocardiogramma me la fa un altro, no quella lì, la visita cardiologica e l'elettrocardiogramma, però prima vuol dire l'ecocolor Doppler cardio, quello lì. Scusa, hai detto un'ecografia stesso. No. Però è per il cuore che ci sono tutti i parametri. No, a me me l'ha chiesto il diabetologo di fare l'ecografia. Io ho avuto uno scompenso cardiaco quando ero all'ospedale, avevo avuto il torfancillo. E quindi me ne fa fare, ferognamo, lo fa fare. Però ci ho beccato un anno e c'è la mia luce. Non mi mai rubo. Ma lì te lo fanno, è tutto lì che ti fanno. Allora ti fai ordinare l'eco cardio color Doppler, si chiama, quello lì per il cuore. E più visita cardiologica e elettrocardiogramma. Così virai tutti completi i visiti, auguri. Parlo pure poi del prodotto d'argutto, giustamente, avessi bisogno di placche bianche, perché c'ero piccolina, avessi sono cresciuto e sono sempre prima stessi. No, questo barugutto è una sagosa. Ecco troppe. Sì, però questo è specifico per il cuore, quello che ti ho detto io. Infatti si chiama ecocardio, color Doppler, si chiama. L'eco Doppler è un'altra visita diversa. Quella te la fanno a Platamona, dove la fanno a me. L'eco Doppler normale, quello per le gambe e per il collo, te lo fanno lì, perché io l'ho fatto lì. E Rosa, l'eco Doppler mi sono mandato a Castel d'Usaggio, a me da vedere. Quindi, no, faccio fare l'eco Doppler e poi l'elettrocardiogramma normale. Mi hanno fatto sempre quella, mi hanno fatto. No, io infatti non ne ho avuto solo le scompenso cardiache e bombaglia. Ma se ti chiedono quello, prima devi fare quello e poi ti fanno la visita cardiologica, che è meglio, che esce una visita bella completa. Ah, l'eco Doppler, non lo so dove te lo fanno anche, a Pulso d'Orra. Mi hanno arrivata a me, una buccia. Sì, anche a me me l'ho fatto. Praticamente deve la questura. No, me l'hanno fatto andare in via mare, me l'hanno fatto, che c'è un centro che lo fanno lì. No, a me praticamente la strada per andare a Sentina dei Chibi, c'è per poco d'ora però, dietro la prima casa. Il Viottolo, c'è Madao che vede la roba del cemento, poi prima, entro il Chibi, su Viottolo, si dice Vizza sopra, faccio la guiva e la c'è anche la guardia medica, sempre lì da Giovanni. A me mi hanno ordinato lì, me l'hanno dato al Cupu lì l'appuntamento, e sono andato lì e me l'hanno dato per lì dare. Adesso vediamo se c'è posto pure. Avanti Gianni. Eia, al poliambulatorio, quello lo servivo io. Portavo l'acqua per i medici. Sì, poliambulatorio, bravo. Fonti vicino. Però quello me lo dava nel gruppo, me lo dava, capito? Quando telefonavo. Tanto Murianetti. Ma Tallinn ha detto, è andato in quello di via Mare, angolo, via Principe di Piemonte, che fa angolo. E poi l'ho fatto anche al poliambulatorio, una visita dal chirurgo vascolare. E lì fanno parecchie cose. C'è anche un centro di quelli prematrimoniali, quelli quei consultori familiari, da. Sì, ho capito. Poi ci lavora Michele, come all'entrata c'è Michele, quello che ha un braccio brazzino. Io non me la metto, comunque sono andato anche lì. Cazzo. Da due anni ai chiamati mi ha giurato tutti i filari. Lo so, Natali, un casino, la sanità adesso è un casino, ti mandano in casino. Io sai cosa ho fatto, una volta mi ha detto che non c'erano più, si telefona al policlinico, sì, qua c'è il posto, venga domani, le va bene, sì. Il giorno prima ho chiamato, il giorno dopo sono andato a fare la visita. Me da ganna, ragazzi. A me invece a Platamo, la cosa di Gumi, me ne vado a Calamari, me ne vado. Prima mi faccio fare la visita e poi me ne vado a Calamari, mi porto la canna da pesca e me ne vado a Calamari. Ma di giorno non va bene a Calamari, devi andare all'imbrunire. E non l'ha detto che non andare. Puoi prendere le seppie di giorno, ma a Calamari non li invito. E poi ci vuole lì a Malare, ci sono i lampioni, le luci. La mamma mio cognato andava in Chivi, andava. E la mamma è vicino lì. Ogni Calamaro pigliava. Sì, e si più freddo è, più peggiore calamari. Sì, è così, è così. È vero. Calamari escono al freddo. Ma ti vedi di mani, va a pigliare quattro calamari, ma io si ribidi burro. Lei non si preoccupi, io attento, se li prendo li prendo, se non li prendo non me ne sbatte nulla, non sono di quelli accaniti io, no? E vabbè, ma uno va a pescare per prendere, non per non prendere. Ehi, Arusogu! Ma se non ne biglino ti vuoi ammazzare, ma cosa non ne biglino? Ma me ne sbatte nulla se non ne piglio. Certo che se fai di notte ne bigli di più. Vabbè, è la notte che si freno. Sì, ma è un tipo di pesca, il lancio recuperi, tipo quando va nel lago, nel fiume, a Cucaino, uguale. È un po' più complessa è la quella ai calamari. E ci vuole la canna d'acqua, gli zattanari, i biruni. Io già ce l'ho la canna adatta qua. Bisogna recuperare piano piano, poi dare una tirata ogni tanto. Basta, tutto lì. Recuperi piano piano, lo fai girare e poi ogni tanto tacchi della tirata. Lì la strage di seppia che ho fatto al passetto già. Che abbiamo fatto, ha giubilato 12 euro una di... E io non me ne ammetto, Antonio, le ho regalate tutte a Claudio, le avevo regalate, te lo ricordi la notte che ho fatto quella strage? Ma ho fatto male a dirlo, perché poi si è sputtanato quel posto, hanno messo le seppie sopra il coso, sopra il molo, ha lasciato il nero di seppia e tutti i cacchi, sono andato una lì, venerai 4 o 5 perché di seppia. E vabbè, tanto non vi buono più andava, mi sarrado pure in chiave, tutto sarrado è già. Andiamo sui cancellati, via, e le telecamere, se ti trovano lì ti sequestrano tutto. Quello è già da un bene, all'entrata del porto c'è scritto divieto di pesca, attenzione, divieto di pesca. E infatti se ti trovano lì ti metti qui tre giorni tutti e ti mettono in buro. A me una volta mi hanno fermato i carabinieri, stavo uscendo, c'avevo pesce e c'avevo anche tutta l'attrezzatura, me ne stavo andando, mi hanno fermato i carabinieri e me ne volevano prendere tutto. Ho detto, ma non ho letto cosa c'è scritto lì? No, non ci ho fatto caso, perché? Cosa c'è scritto? C'è scritto divieto di pesca, e lì adesso ci deve avere tutte le canne, tutta la roba che ha pescato, deve sequestrarvi tutto. Poi il collega, dai, lascia perdere, dai, io che andiamo. Manco male, mi conosci, ha visto e ha lasciato così. E diciamo che non aveva voglia di scrivere. E tu potevi dire già, no, io già l'ho pescato a Platamona. Sono venuto qua, c'era apposta, ma non mi piace, me ne sta andando via. Sì, me l'ho fatto uscire, me l'ho visto uscendo dal cancello, all'entrata, brutto. E tu ci sono entrato a vedere apposta, me ne sta andando via. Non sono macchino. E un giorno, alle 4 di mattina, io andavo perché mi prendevo il posto al Molo Cattaneo. C'avevo il posto proprio la prima curva, mi mettevo lì e riprendevo sempre dorate. Alle 6 di mattina cominciavano a mangiare. E se non andavo più presto te le fregavano il posto. E alle 4 stavo scendendo, vedo la macchina dei carabinieri dietro di me. E mi hanno puntato il faro, quello alto che c'erano sopra. Mi hanno puntato il faro. E io ho continuato ad andare, poi mi sono fermato a Molo Cattaneo, si hanno fermato la macchina, buongiorno, buongiorno, e dove sta andando a quest'ora? E a quest'ora sto andando a pescare, a prendermi il posto per pescare. Io lì la conosco, dice, la conosco, ma non so dove. Stavamo pensando che era qualche persona che avevamo arrestato, roba del genere, e poi quando ho detto che era il turismo, che ti ho detto, non me lo potevo dire da prima, e lì perché non mi ha fermato prima, gli ho detto. E se li sono andati, capito? Dice, è una buona costanza, cioè andare a quest'ora. E tanto se non andavi presto si riempiva tutto, te le bidavano in lungo e non faceva più, capito? Perché c'era un punto proprio bello che con la cozza riprendevi sempre. Anche con i granchietti già. Un pezzo di mastocino, un pezzo di lenza, metti un pezzo di sardina, facevi forse una maglia asciuga e vedi come ti arrivano i granchietti. Ma io mi ero attrezzato.